Μια βρούσα. Δεν έχω καταμαράνο. Νομίζω εσπέντο. Ούζω σόλο. Πάμε σε προπαρατιό. Τι να κάνει σου. Να κάνει σου. Να διάφα. Attenzione, canale 10, se ascolti, K... Via, compareggia, compareggia. Gran cane, caro. Io ero in 40 anni, 7130, e c'era Alberto. Ho fatto due chiacchiere, adesso ho abbassato il volume. Ci ho fatto 15 punti. Che ci sono, adesso ne faccio altri 15 e poi mando un diploma, 30 punti. No, io. Che ore sono? 16:58, già le 5 sono, aspetto un'altra volta, poi mi attacco la serva, cazzo, mi è cresciuta l'erba di nuovo, una cosa allucinante, è una giovana, però... Erba, cappucci a camminare giù. Un altro messaggio di quella radio. L'hai letto? Bello quel 140 che c'hai. Ti deve arrivare. Molto bello. Bello nuovo. Ah, sì. Poi quando si a 130. Ma io amico quello, Alberto. Sta facendo un contest. 15 punti. No, io già, ho già collegato. Adesso collego la serena, ma dai, te ne do altri 15. C'ho già la frequenza 3660. 9,7. Mi dà altri 15 punti, sono 30. E poi mi manda il diploma. Così puoi fare la domanda di validità con tutti i punti. E via. Sì. Vieni, ho un cazzo dentro l'armadio di cazzo di pronto. Prima ce l'avevo tutti attaccati. Sono tutti incorniciati, attaccati, una ci vogliono tutti. Diploma dei Novaci, ne immagino due. Sono tutti dentro l'armadio. C'è anche le prenda, e se la pia tutto. Guarda se che qua avevo spostato la marca ingegno. Ok, KK. Grazie, sono 60. Ehi, perché non si sente? 60, vabbè, collegato al mixer, KK. Sto usando 60, vuol dire già si sente, tanto c'è lo scatto, ma poi l'amplificazione è particolare, capito? Infatti, sì, KK. Allora, aspetta, un secondo, guarda. Ok, allora, adesso siamo con quello da studio, KK. Cuffie. Ecco, la studio è troppo alto. Ma attacca lo devi abbassare. Abbasso? No, perché qua nel suo canale non sto toccando niente io, capito? Mechega 2. No, non sto toccando niente qua, capito? Vedi un po' se va meglio adesso. Sì, lascialo così, se no è troppo burottoso. Il 60 è bello stabile, è bello, capito? Chi sei troppo burottoso, troppo amplificato, così già va bene, lascialo così. Magari ho toccato facendo qualcosa. Non lo so. Questo è sempre il... sto facendo tutto con qualcosa, capito? Il PTT da 60. Questo è quello da studio. Ok, adesso ho collegato il Phantom, cioè l'alimentazione di quello da studio. Sta facendo però tutto col PTT da 60, sta con uno spinotto e basta, non devo fare altro, capito? E lei per salotto, per fare QSO. È meglio 60, questo spinge troppo, questo è, se fa il collegamento a lunga distanza, se c'è qualcuno fuori, ma per Sassa li usa 60. Allora regolamelo io. Oh, va bene così. Tanto devo fare altro che girare un pomellino, ma non è che devo fare questa cosa. Lascialo così, ma non lo capparò. Cazzo, ogni volta che cambi a manetta. Lascialo così, va bene, simile a 60. Così capito. Così posso usare sia l'uno che l'altro sempre con la stessa base, capito? Niente di elettrico d'altronde, perché lo studio c'ha la sua alimentazione, che va direttamente al microfono, così che. E tappa. E così posso tenere due microfoni, perché questa ha due uscite, dove solo due microfoni posso collegare. Capito? Cava, cioè due da studio e due dinamici posso collegare. Roger, andiamo avanti, vediamo chi c'è. Sì, ti rispondo a quella domanda, perché stavo ascoltando là anche. A quella domanda, allora, aspetta che se abbiamo scelto i vatti. Oh, ok. Sì, dovrebbe arrivare domani, perché questo che è già qua praticamente, quella radio che ti ho mandato la foto. La foto molto bella. Vabbè, come sapere se lo vuole qualcuno. Quella è una radio per Gianni, vedi? Quella è da non perdere. Quella è molto bella, simile a questa che ho io. Si vede che è trattata bene, non ha graffi, non ha troncalino mangiato. Molto bella. Bella, bella. Come sapere se non la prende nessuno, ma la prendo io, ma riuscì in agio lui, se ti dica. Se non darla a nessuno, ma la prendo, poi se qualcuno la vuole gliela do io. Ma a me non mi interessa né guadagnarci né niente, io quanto la pago la prendo, ma non fate sei. Non vivo di radio, perché a Dio vivo l'altro. Ma infatti, quello che voglio dire, almeno quando dai una cosa la dai che è perfetta sia esteticamente che elettricamente, capito? Sì, glielo a proposito, glielo ho già mandato a Gianni le foto, che so che ne stavo cercando una, e glielo ho già mandato, KK, vediamo un po', e a me, claro, io non sono lì a, tanto lo dice a tutti magari vogliono, e da buon in biglia, il primo che viene si abbiglia, capito? Io aspetto qualche giorno, se non hai agganci, quando arriva mi fai un video, anzi non so se Robert mi aveva già fatto, forse te l'aveva già mandato, non mi ricordo, comunque, non fai vedere, ti do solo che me lo porto via, non sai, io sto poco a, già che ne faccio poche, non è che devo vendere per acquistare. Io sono una cosa che mi piace, acquisto senza stare lì a rompermi le palle a vendere, se poi chiaramente me la chiedono che ce l'ho in più, la do, ma giusto per darla, per togliere una mezza ai piedi, ma non è che devo prendere niente, capito mi hai? Vabbè, quando arrivo ti devo far vedere, se nelle condizioni che ho visto nel video me la prendo io. Va bene, adesso mi sto aspettando la risposta di un altro paio, Gianni però mi ha detto che non la vuole. Non la vuole, perché? Non lo so, sta facendo altre operazioni mi sa, non lo saccio. Io beh, se non ti piace una radio ti piace o non ti piace, non ti altre operazioni, anch'io adesso. Forse stasera sul tardi o domani mi entra anche il 757 fatica. Non so se me lo porta stasera o domani mattina, quindi immagino già di 757 GX2, 430, 2140, 920, lo standard, 820, Galaxy, brutto, lascia aperto. C'è un nuovo piano di radio, però vediamo gli HF, mi piacciono il baracchino, me la fotti un 757, io l'ho avuto, c'è anche il microfono già pronto, la Yage, molto più bello del 140 esteticamente, funzionamento in AM va meglio del 140, ma in banda laterale 757 è molto più preciso. Quindi non è che, vabbè, ognuno guarda la tasca sua, ma è di là che me la fotto un cazzo. Ma infatti io ripeto, Carleni si umilia, adesso arriva domani, ti rimando le foto, ti serve di incoraggiamento, ti faccio il video del suo funzionamento e tutto, capito? Concludiamo perché devo recuperare, capito? L'ha giubilato, però mi sa che lui che ne comprende più nessuno, capito? Io l'ho preso perché è in ottime condizioni, veramente come nuovo, e così che mi dispiaceva lasciarglielo. Però se nessuno lo vuole, allora, capito, subito messo in vendita. Lo sai che io faccio fatti, non parole, no? Lo sai, no? Ma infatti non vorrei che poi mi dicano, ma perché non me l'hai data a me, perché non me l'hai detto a me, capito? Simone ha più di tempo, ma io lo pago 200, ma io lo trovo a 250, e andrò a comprare il giardino. Non lo so, perché ragionano così. Fatti, non parole. Parole non servono a niente. Non mi è mai già detto il prezzo, non me ne frega niente. La radio mi piace, me la prendo, me la tengo qua a cui. Ripeto, se qualcuno la vuole, se è una cosa fattibile, gliela do perché io ce l'ho in più. Se non è fattibile, rimane qua, come tutte le altre cose che ho. Basta regalare, perché a regalo non si va più niente, non ci regalate di così. Oppure le regalo a chi dico io, no. Capito mi hai? Va bene, va bene. Veniamo a quello così. Domani se ti arriva, se te la consegniamo. Domani mattina avvisami. E ci mettiamo d'accordo, scendo, me la porto via. Va bene, d'accordo. Sì, come arriva ti avviso. Da voi intanto ci mancherebbe che poi magari ce l'hai tu e ti la domandano a te. Capito, cosa già un ballo non gioco, però. Vabbè. Io ne ho ritirato tre quest'anno di radio mie, figurati. La linea completa del 920, dentro la scatola mai usata, ancora con le memorie che avevo messo io in 40 metri e in 20 metri, fate il conto, perché in 27 quello non lo usavo io, tutta imballata, scatola originale, manuali, cavi, microfono, tutto, l'MD100 dentro la scatola, sempre il mio, ho ritirato tutto quello che avevo là, tutto, linea del 920 della Jesu, completa di MD100, C910H, VU base da 100 watt, il 140, e poi non mi ricordo, ho portato che sono fatta, quello, da Alghero. E poi anche a Pinocchio vi ho ritirato il 140 lo stesso, che ho dato l'Antonello. Quindi non aggiungete la roba, mi è entrata quasi tutta la roba mia. Ah, due 440. Tra l'altro uno non era mio, uno sì. Quindi non aggiungete la roba, di roba, perciò fatto 30, posso fare anche 31, 32, 33. Va bene, quella lascia la mia, ma la prendo io, poi chi la vuole, quello che l'ho pagata io la vedo. Se è fattibile, se non è fattibile già rimane no. Infatti ci mancherebbe che poi te la chiedano a te, boh, ma infatti, vabbè, ti devo lasciare una mezz'oretta, devo andare a comprare l'acqua, KK, ok? KK, a dopo. Sì, lascia tutto acceso anch'io, una mezz'oretta forse riesco a fare qualcosa fuori dal tratto, sentiamo dopo. Ehi, a dopo. Paola. Andiamo. qualcuno. Cianni. Che si dice Cianni? Che si dice? Stavo cantando sino adesso. Adesso mi sono messo alla radio. I miei passatempi. Non fai bene. E almeno mi passano i minuti così. Me ne dimentichi, già ci credi. Quando canto non ci penso. Ah, così, non sapevo che la musica faceva passare i dolori. Non è che vi fa passare, Lu, però, capito, ti distrai. Ah, no. E immagino. Se almeno fosse così, allora sarei sempre cantando. Ecco perché stai sempre cantando, è sempre addirittura facendo contest, allora di un riso baloso. E allora, ma adesso sono finiti, ieri ho finito l'ultimo, adesso ne devo ricominciare una dalla prossima settimana. Sì, ma non lo so se ne partecipo, perché c'è anche un posto dove tu puoi cantare liberamente, no? Senza fare contest. Canti e poi praticamente ti salvi la canzone e gli altri ti scrivono bravo, oppure magari hai fatto male questo, oppure ci sono i critici praticamente, tipo Sgarbi. Canta e ti bacia. E allora canta che ti bacia, ti passerà paura. Così diceva mamma, canta che ti passerà paura. Che mamma diceva sempre così. E beh, Flippe. Ah, vabbè, claro. Hai visto quelle foto che ti ho mandato di quella radio? La paura con la radio. La paura bella, molto, molto bella. La mia è nuova, bellissima. Questa mi sembra più... non so. Quando ti arriva, mandami un video. Se non la vuole nessuno, me la prendo io, te l'ho detto. Sì, molto bella. Cioè, tu cazzo non ce lo fai un pezzino su quella radio, minchia bella, la nuova, già. Cosa? Non ce lo fai un pezzino su quella radio, minchia quanto è nuova. Ma io se non la voglio me la biglio io, faccio la collezione dei 140. E prenderà tu qua, io prima mi devo vendere il Ruiz, sennò non ne voglio spendere tutti quei soldi, capito? Prima vendo il Ruiz, poi aggiungo qualcosa, va bene. Niente problema, vendere il Ruiz. Cercate un sito di gente che c'ha vintage, che vendono così, capito? Gente che c'ha il vintage, che magari non ce l'ha, lo compra più in fretta, capito già, vendono così non fa. Io avrei preso poi, quando lo vendo e non faccio così, non è che se capita, se c'è disponibilità, no, ho preso un 757 GX2 CAT System, nuovo, ma so se è nuovo, mi ha mandato le foto a Luca Ziasucat, e quello non ce l'avevo e non ho venduto niente. Capitata l'occasione, l'ho preso, è una bellissima radio, più bella del 140, esteticamente in AM va un po' meno bene, ma in banda laterale è una scheggia quella radio, però ce l'ho, molto bella, è un prezzo buono, 300 euro e l'ho preso, buffo di Puglia. Disponibilità la conosci tu della tua tasca? Non è che sono disponibilità, il fatto che qualcosa a parte devi sempre avere, capito qualche cosa, devi avere sempre l'aria. Quindi preferisco non rischiare. Ho capito. Beh certo, non c'è che io ho svolto il conto per comprare la radio. Ce l'ho di più e ho fatto un affare. Però questa non la vuole. 757 non esce da qua. Non ce l'ho. Poi c'è due laser, mamma e figlio. 430 e insomma, 240, beh, 2, forse anche 3. Forse anche 3, perché ne avevo preso uno nuovo. Con i finali bruciati sono già arrivati ed è già da in lavorazione. Anche quella nuova. Questa è già che arriva a Luca, è favolosa, molto molto bella veramente. Se Gianni vende questo cacchio di Ruiz, vuol dire glielo darò io, otteniamo qua a Sassari, me lo prendo io, poi vediamo se Gianni vende il Royce, se cambia idea, vuol dire glielo passo io, il Zobitrick. Allora facciamo così, dai, direttamente. Sì, me lo prendo io, poi se... se Gianni è disponibile, mi fa un colpo di telefono, io non è un problema. Io non ci vivo alle radio, io quello lo pago, lo vedo, una fotoserma. No, 4757 è favoloso, bellissimo. Mi sei dimenticato di darmi il cavo, ecco, che me lo porto appena scende a Sassari. Il cavo di alimentazione, perché non ne ho io. Quello 920 è diverso dal 757. Quelli dei K sono diversi, mentre invece quelli dei K vanno bene al 920 e viceversa, capito? Vai già. Magari prima l'avrei preso al volo, là. Però adesso dobbiamo fare anche questa storia del palazzo, capito? Devono pure strutturare il palazzo, ci vogliono soldi per quello, ci vogliono soldi per quell'altro. Devo pensare anche a queste cose, capito? Lo so. Io avrei fatto l'intento, c'è nessun problema, avrei partecipato lo stesso alla spesa del 110, però... il mio vicino di casa, quello che abitava a fianco a me, è venuto a trovarmi da poco, 4.000 euro a testa non esce, non so se IFA, se sono anticipato 4.000 euro, e vabbè, sono bene, comunque, è così. E vabbè, ma ti cambiano un po' di cose, ti cambiano finestre, ti cambiano lavoribili, tutte queste cose qua, termosifoni, impianto elettrico, ti fanno tutto, capito? Le porte interne del mio appartamento sono nuove, non li cambia, ti sia assolutamente. Che faceva mettere la porta finestra del poggiolo, la finestra grande quella treante, sempre l'autostrada. Finestra del bagno, adesso sono tutte nuove, intanto non c'è da fare niente in un appartamento, mio cazzo, l'ho fatto 7 anni fa, 8 anni fa, già nulla, pavimenti, porte, solo gli infissi che danno l'autostrada, beh, volibile, adesso si li fa mettere con gli elettrici, a tenere il poggiolo, c'è, poca roba c'è da fare, infatti, aggiunge pochissimo, mentre il padre invece è 4.000 euro. Vabbè, l'impianto elettrico è nuovo quello, ho fatto tutto a nuovo con l'appartamento, ho avuto un anno e mezzo per fare tutto. Lo so, tu sì, ma ce ne sono tanti che non sono a norma, gli impianti e anche l'ascensore hanno cambiato in tanti plus perché non era a norma. Anche l'ascensore, la cabina completamente l'ascensore. Mentre invece mi stavo dicendo che c'è l'idea di fare il fotovoltaico, adesso che non ci sono più le antenne mie, capito? È tutto libero al tetto, adesso è bello pulito, ordinato, prima tutto pieno di cavi, antenne, direttive, un casino. Adesso invece è tutto pulito, sembra, quanto mi stava dicendo il tuo amico. Hanno preso in considerazione il fatto che non c'è più tutta la mia roba e quindi stanno pensando di fare fotovoltaico. E di fotovoltaico risparmio un bel, perché sono 16 e 16, capito? Sono 16 una palazzina e 16 dell'altro. Quindi sono 16 e 16, sono 32, capito? Quindi 32 famiglie che usufruiscono della... del fotovoltaico. Avanti, Luca. Che abbasso il ricevitore, sto ascoltando là, dove eri tu K, a che tu 30. E c'è sempre. Forse c'è poco fa, io a 7130 mi sono stufato. Non c'è molta voglia di stare in HS, che poi iniziano a entrare 7, 8, 10, devi segnare, fare, mettere a log, c'è un travaglio in HS, facevo anche io il 27, ce l'ho il diario di stazione, lo sai? Sì, questo uno è il 27, già, no, che ci imbagli baghi, qua devi metterlo al computer, tutto segnare, 5-9, poi tutto il bar. Devi tenere, c'è un capomaglia, quindi devi tenere la ruota, non è che lancia la tibiasi a te. E trasmette anche adesso, non è facile a volte. Io ce l'ho ancora conservato, il diario di stazione. Però a me non scriveva l'orario, tutto quanto. Ah, il segnale, da dove parlava, tutto quanto. C'erano proprio i fogli da compilare. E, però era un travaglio a vivo, io me lo ricordo, era un lavoro. Non puoi stare modulando e segnando. Poi adesso lo dovete fare tramite internet e roba del genere, se no prima si faceva cartaceo. Quando ero iniziato io al 92, sì. Poi abbiamo fatto tutti i corsi via internet, log digitali, capito? Non c'è manco più QSL adesso, si va direttamente con la QSL digitale, capito? Metti al log, clicchi, invii QSL e ti arriva direttamente il collegamento con la QSL, con la conferma direttamente digitale, programmi di ultima generazione, prima invece no, prima dovevi prendere tutto il log cartaceo, questo chi è QSL, questo chi è QSL, che alla fine dovevi spedire 50, 100, 150, anche 200 QSL ho spedito una volta io. Spedivi tramite la sezione che c'è il QSL manager, va via lui, si arrangiava tutto lui, però devi sempre pagare 80 euro all'anno, perciò non faccio più niente, non me ne affitti più nulla, 80 euro all'anno mi vengo busciato anche, a Natale mi esce un porcetto, vai lui. Non so se c'era qualcosa oggi, non so, allora, magazzino Luca, sì, su gosto. Prego, di segnare, prego, mi aspetto. E come fai a ascoltare due radio cosa fai a mettere lo completo? Sono già quattro attesi io. Io un po' abbasso il volume. Non è che io sono 7130, 3660, 525, 433, 550, il Galaxy nel canale 20, il 430 a 27405, il 140 a 27275. Io. Sta diventando Marco. Io le accendo tutte, tanto sono tutte sotto antenna, già non me ne ha fatti nulla. Le HF e me sono separate, non è che sono, qua c'è solo Mantova. Mantova comuta, 430 a 140, è il Galaxy, capite? Quelle altre sono tutte diverse, le antenne, quindi è un'altra cosa. Gappa, gappa, gappa. Che palle, però, che palle. Capito Gianni? Gianni lo vuole questo vice Vittorio, Oca. Mi piace troppo, ha detto. Sbaglio. Cosa? Ho detto che a Gianni gli piace questo ricevitore, c'ha una stereofonia, cazzo incredibile. Capito? Però c'è anche il modulo V1. Cos'è? Chi sta ascoltando il V1? Aspetta che abbasso, c'è Gianfranco. Quello c'è anche il modulo V1? No, solo VHF e banda aerea. Il modulo VHF si qui va a 130, 170 e poi fa 0,30 così. 9 più 10. Esatto. Ma è, guarda, mi stavo mettendo l'orologio adesso che ancora non l'avevo sistemato. È una bella macchinetta quella. 5.000 della Tiemo, è un bel ricevitore, bello massiccio, grande, un bel ricevitore. Ehi già, se non ci abbiamo più, ma io ne ho sempre di 140, non ce n'è problema. Si può prendere anche il ricevitore, visto che a te ti piace, però almeno te lo sfrutti in ricezione e trasmissione. No, che ci sto qua, te lo posso usare anche il 27 in trasmissione, capito? Beh, certo che sì. Ma... non mi piace col microfono normale, dovrei buscarmi anche l'MC60 se lo prendo. Ce n'era uno, cioè, quanto costa? 60 euro quell'M60 che hai visto già. Sì, e questo è 60, vabbè, attaccato al mixer. Oh, perché non ti piace già il microfono suo? Non mi piace come esce, dai. Sì, esce bene, però è normale, non è come una radio normale, dai. Se te l'attacco al mixer ti faccio vedere che non riconosci uno dall'altro. Col mixer, io non ne ho posto più, te l'ho spiegato, io ho un ripiano dove devo mettere MC60 e l'apparato, basta, non devo mettere altro. Poi giù c'ho tutto, c'ho ROS, metto watt, metto accordatore, c'ho gli alimentatori, c'ho la colonnina dell'altro apparecchio, insomma, un ripiano, il primo ripiano dovrebbe andare per quello, e ci deve stare il microfono, se no non avrei preso tutta la linea, quello che stava per tutta la linea. Ma scusa, ma quando tu metti quell'apparecchio lì, no, il K, gli altri li togli, o lasci anche baracchini, baracchinetti, Guido e Lasco, cioè, non ho capito. Certo che li lascio, al K gli dedico solo il primo ripiano e basta, poi gli altri sono gli altri ripiani, no? Ah, perché tu dici, metto tutto e uso tutto, ah, ho capito. E certo che sì. Guarda, questo ruolo ci ho fatto mari e monti per cercare di provarlo, adesso lo sto vendendo, non so come credo già fosse. Magari lo stai vendendo per cercare di raccimolare per prendere l'altro, come si fa di solito. Capito? Ma io sono del parere che accumulare non serve a nulla, non serve proprio a nulla. Se a me mi piace una cosa, me ne vendo un'altra. Ma cosa vuoi fare? Ah, intanto la puoi ti rimane in un armadio. Ah, oh, gli altri apparecchi che c'è sono tutti simili, vanno tutti bene. Se c'è il Cobra, c'ho il 3009 che va benissimo, c'è l'Inter che sta sulla base, quelli sono, cioè, fanno stazione, capito? Con tutti con il suo microfono, non è che devo togliere il microfono uno dall'altro per metterlo nell'altro, cioè ognuno c'ha il suo microfono, eccetera, eccetera, c'hanno tutti il rosato accordatore, c'hanno, insomma, è tutto con gli alimentatori separati. Cioè, cosa dobbiamo dire a un microfono normale di un K? Cosa dobbiamo dire? Questo è un microfono normale MC43 MC43 del 140. Cosa dobbiamo dire a un microfono di genere? Perché no, non va bene? Perché dobbiamo attaccarlo al mixer? Perché tu hai l'amplificatore incorporato. Sì, l'amplificatore incorporato. Cioè io sto vedendo i picchi che c'è, questo microfono ce l'ho a 10 cm dalla bocca, col processore inserito. Per me va benissimo. Diciamo che è scomodo, a me non piace usare i microfoni da palo perché sono scomodi, ok? Io ho tutte le radio con i microfoni a tavolo. FT920 MD100 della IAES, 820H della ICOM, SM20 della ICOM da tavolo, poi cosa c'è? 4 ce n'è qua, allora, sì, MC60 per i 430, MC60 per i 140, non ci riesco, però se devo fare una prova, se momentaneamente compro una radio, adesso il 757 c'ha il microfono normale, io ho l'MD100, però ne ho uno, quindi o mi trovo un altro microfono MD100 con l'ISO oppure lo userò col microfono normale, pazienza. Ma non mi posso lamentare, grazie a Dio già riesco a farlo spingere, ma non diciamo che usciamo male col microfono originale, diciamo che è scomodo, perlomeno a me non piace usarlo perché è scomodo, però esce bene. Ma no, da parte mia non è scomodo, dipende sempre da quello che, da come ne fai uso tu il microfono. Io per dire, se sono sdraiato, a me mi piace più il microfono da palmo perché non mi devo manco muovere, sto con il capo e il modulo, e in questo periodo ti assicuro che sto più a letto che in piedi, per cui mi va bene anche il microfono, capito, di quelli da palmo. E niente, SMR, ecco, ma tu hai un'altra voce, capito? SMR perché tu hai, come ti ho detto, c'è l'amplificatore incorporato. Ecco, questo è l'MC60. Vabbè. Io perlomeno ce li ho tutti i microfoni, veramente, tutti da palmo, da tavolo, tutti in originale, anche per dire quello del Galaxy, o il suo originale, marcato Galaxy, eccetera. Esce molto bene come microfono, esce molto bene. Ne stavo facendo una malattia, ma grazie a Luca me l'ha trovato lui l'SM20 della Icon per l'820H, perché non riuscivo a trovarlo. Nuovo, dentro la scatola, nuovo, dentro la scatola, bellissimo, 130 euro l'ho pagato. Proprio perché ero, stavo diventando scemo, cercando di abbinare microfono a tavolo, danno più trezzo lo buonendo, ma non usciva bene, era tutto barattoloso, tutto. Alla fine l'abbiamo trovato e c'ho il suo microfono a tavolo della Icon che va molto bene. Però, ripeto, certo Gianni, per comodità a te, soprattutto che tu stai molto sdraiato, usati, se ti capita di comprare un HF, usati il microfono normale, poi con calma un 60 si trova, però per dire, escono veramente bene, i microfoni della Kenwood e della Yaesu, ma anche quelli della Icom, escono molto molto bene, molto molto bene. Vai Luca. Aspetta un attimo. Gappa. Questo è il mio 140, quello che è lo stesso nuovo che avevo ritirato a Vale, è veramente ottimo, questo era il pupillo che avevo, nuovo, e vabbè, adesso vediamo come va, adesso mi portate la retroalimentazione del 757, proviamo il 757 a vedere come truba. Lucca! Ha detto aspetta un attimo. Ma che affari fendi? Oh Gianni! Nara! No, si è attaccato un attimino il microfono, questo è l'originale di questa radio. Questo è l'originale, direttamente attaccato alla radio, ti sto facendo le connessioni al pedale. Al pedale, amici, già l'hai visto, 5x5 è grande il pedale. Aspetta un attimo. Sì, adesso certo che col mixer, cavolo, è normale che amplifica, sembra l'MC60 così. E dice my friend, Italy from Sardinia. Hai sentito questo inglese? Cosa già? Non hai sentito questo inglese che ha chiamato? No, mi sono allontanato un attimino. Ma non ho più risposto. Che inglese era? Inglese di Sorso o di Sassari? No, era inglese d'inglese. E oggi facendo il contesto mi è capitato lo discorso. No, oh, qua c'era l'accento, Tucano, ha scritto io sono discorso. Allora Tucano. Perché uno mi ha detto si sente che sei sardo a me, no? E questo ha detto io sono discorso. Anche i sorsesi cantano. Ha fatto il discorso, non ho più sentito a Franco. Sono fatto di Borra a Torino, non è andato bacio a Torino, Cosa? Non ti ho capito. A proposito di Sorso, non ho più sentito a Franco. Franco di Sorso? Che poi hai detto tu bella, non di Sorso, vabbè. Immigrato a Sorso. Non l'ho sentito manco più io. E dopo che aveva quel Galaxy, l'ho sentito qualche volta, però non l'ho più sentito. Franco è nato a Sorso, a Cotubella. Ma da bambino a Sorso lo conosco una vita. E immigrato. C'è il fratello, c'è l'autocarrozzeria, l'officina, tutto bello. E corre anche in macchina, non so se sta correndo più. Chi? Il fratello di Franco. Ah, correva? Sì. C'è la sala Piccara, Sassari Usilo. Sì. È bravo pure. C'è una bella officina, tutto bello, fratello, carrozzeria. Oh, tanto già ci va perché c'ha parenti di Franco. Allora, ci siamo? E via, fratello c'è da Giudito. E la mamma Burma in barico. Vai Lu. Allora, questo è il microfono normale, collegato al mixer sempre al secondo canale. Se vogliamo aumentare, aumentiamo. Questo è il microfono MC43K. Si possono aumentare, diminuire i bassi, tutte le cose, capite? sì, già, capito cosa ti voglio dire. Vediamo un po', ecco qua, forse sto uscendo discretamente adesso, vedi un po', com'è? Una MC 60, vai. Sì, così è una MC 60. Così è una MC 60, Lu. Però te l'ho detto, te l'ho spiegato, non c'ho posto a mettere, dove cacchio me lo metto il mixer? Non l'ho preso manco, lo volevo prendere per lo stereo e mettermi due piatti per fare un po' di cose, di DJ, dai, fare un po' di mixaggi e roba del genere, perché mi piace, ho sempre avuto questa passione, però non va giù lungo, quando me cavolo me la metto le cose? Oh Gianni, fuia! Scusa un attimino, il pedale, l'hai visto quanto è grande, sì o no? È 5x5, non sai dove mettere una cosa 5x5? Boh, non lo so, non lo saccio, ma io per migliorare faccio, cioè, io lo farì, però uso un microfono normale, ma esco però, capito? Non so, là tu cosa ne pensi? Allora, guarda, quel pedale che c'ha Luca è quanto? È un 747 già. Sì, va bene, io l'ho sentito che va bene, però qua è un casino, cioè, claro, tu l'hai visto come una stazione mia, no? Come è fatta? L'ho vista, sì, cioè un mobile, chiuso. Lui ha aperto, insomma, non ricordo se l'ha lasciata aperta, eccetera, ma è solo in camera. Se lui avesse avuto una cameretta per i fatti tuoi sarebbe stato diverso. Un bel mobile, una bella scrivania, una bella base, come c'ho io, tutto, e puoi mettere quello che vuoi, capito? Alla fine questa, sì, è stata progettata per camera degli ospiti, ma a Ravini me l'ha già fatta sala radio d'ora, perché oramai non c'è più posto. Ho aggiunto anche l'altra base di nuova L, tolto via tutto, è rimasto solo l'armadio come avevo di là, perché ci sono le radio dentro lo stesso, boh, basta, non ci riesco a stare in un angolo io. Io nuovamente la stessa sala radio che avevo prima, ecco perché sto mettendo tutte le radio che avevo, anziché tenere dentro l'armadio, le uso, perché c'ho posto, però ti ripeto, Gianluca è un bellissimo attrezzo e mi sta tizzando forte lui, mi sta tizzando forte, ed è grande quanto un 747, quanto un lineretto, capito, è piccolino. Oh Claudio, sì. Aspetta, ma male sto uscendo? No, ventola, te lo già esce in me. Ah vabbè, la ventola è dell'alimentatore che l'ho accesa io. Adesso non ce l'ho pensato. Allora, no, Claudio, ma il 747 tu cosa intendi? Come grande, cioè come la radio 747? Non ho capito. No, come lineare, come lineare. La foto che mi sta io mi sembra grande quanto un lineare 747. È più piccolo, il pedale è più piccolo. È grande come un commutatore, ma... E questo è il microfono, se vuoi te lo attacco e te lo rifaccio sentire attaccato alla radio. Cioè, ci puoi giostrare, capito? L'attacchi col biadesivo che c'hai tu, micidiale, lì al fianco del mobile, il pedale, lui la seguivi e boom, di altro. Però, capito, hai la possibilità di aumentare quando vuoi e come vuoi. Ma c'hai una radio, allucina. Cioè, questo è l'MC43 col pedale. Eia, se vuoi ti faccio anche il video, io non ne ho problemi, la già usai, tutto quello che attacco faccio il video. Sì, secondo volume addirittura è a 7, ecco, adesso è al massimo, secondo volume, guarda, 1, 2, 3, adesso abbasso, primo volume è addirittura sempre a 7, perché di solito lo tengo così, e così lo sto aumentando, vedi un po', ecco, questo è al, il mic viene sempre a 2, ripeto, e questo è il primo volume al massimo, vedi? Adesso lo riporto a 7, ok? Siamo? Grazie del argomento, adesso. Cioè, ma per la mia esperienza, da che vudiano, ti dico che sta uscendo meglio così che con l'MC60. Cazzo, una bomba quel pedale, veramente una cannonata, cazzo che bella. Bella modulazione, già, se tu colleghi anch'io un microfono normale, devo un altro biadesivo, lo attacchi al bianco con un mobile e colleghi il microfono e c'è MC60. Sì, non lo credono, se lui dice che sta usando, io posso fare anche le scommesse, io ci prendo un poco di denaro. Io sono sicuro che non non ci crede nessuno che lui sta usando, guarda, il Michele è a 2, guarda, adesso te lo aumento, adesso è a 3, guarda, così a 3, così a 4, però siccome c'hai il pedale non c'è bisogno neanche di toccare il mic gain se vuoi spingere. Bella modulazione, veramente, bella modulazione, grande, grande lavoro, bella modulazione, eh già, faccio un pensierino, costa molto meno dell'M60 quel pedale. Quanto costa? E cosa costa? Mi sembra ho pagato una quindicina di euro, 20 euro, questa è una piazzata, Gurcia. Ma c'ha tutti i potenziometri e i pulsantini per far sì che sci bene, capito? Cioè, che puoi aumentare tutto quello che vuoi. Cappa! Già, tu quindi zero, sei quello che mi c'è stata, tu che stai sempre col gatto, secondo me, faccio un pensierino. Quindi tu i pulsantini non lo tieni in mano, e lo prendi col dito, così. Allora, lo puoi fare direttamente attaccato al microfono, capito? Perché poi c'è l'uscita del pedale che va alla radio, ok? L'ingresso lo prende dal microfono e l'uscita va, esce dal pedale e va alla radio. E tu usi il microfono, capito? Non devi, il pedale una volta che lo premi, che si accende, basta, non è che lo devi tenere sempre premuto. Tu usi il microfono, come io sto usando il microfono, mica sto usando il pedale accendi e spegni, no? Il microfono uso come un qualsiasi microfono, perché il pedale rimane sempre acceso, no? Ho capito, e l'attacco al pedale è lo stesso del Kingwood? No, le uscite del pedale sono uscite a jack, ok? Sono uscite a jack, due jack sono, ingresso e uscita, capito? E com'è il jack mono? Esattamente, jack mono, sì, esattamente. Sono due jack che uno va all'ingresso del pedale e l'altro va all'uscita. Ho capito, ho capito. Quindi c'è da modificare anche l'attacco del microfono. Ma quello te lo faccio io, sono una cazzata già, capito? Io sono una cazzata. Bisogna solo staccare i due fili dello spinotto e collegarli al filo dell'ingresso, capito? Ma non devi fare niente di chissà che cosa. Hai visto quando ho fatto in fretta io, questo non l'ho mai collegato al pedale, mai, mai, mai, l'ho tolto dalla busta poco fa per farti sentire la differenza, capito? Gli ho infilato due fili così, tu puoi immaginare dal jack all'1 e al 7 del microfono, basta, non ho fatto altro. Sì. Mi sa che ci facciamo un pensierino, così inizia a rimenare un po' di microfono da qua, un aggio un pundro. 3, 3, 6 e 2, 8. 8 ce n'è sul tavolo, compreso quello del Galaxy, da MP3 e MP5. Sì, gran bella cosa, questo non me l'avevi ancora fatto sentire Luca, eh? Gran bella cosa, ti dico che sembra un 60, proprio pieno, pieno, pieno, bella corposa, la modulazione molto, molto bella. Ecco, tu fai una cosa, prenditi il pedale e mi dai le bici 60 a me. io ne aggiungo 3, tutte e 3 sui K, già. Tra l'altro io ho un MC60 che stacco il carretto Kenwood per non modificarlo, mi sono fatto fare a Fabrizio il carretto di Aesu, quindi posso usare 60 anche quello di Aesu, capito? Senza nessuna modifica, svito quello del Kenwood e avvito quello dello Aesu, capito? Io sono organizzato così. Oh, già. Già uno l'ho dato a Luca, ma gliel'avevo promesso già da tanto tempo, se te ne compri un K, te lo do io, e gliel'ho dato, la verità. Vero o no, Luca? Sì, confermo. Mica, addirittura si sente la ventola della radio. Io sono in cuffia. K, vedi, questo non l'avevo messo ancora, non l'avevo ancora messo. Ripeto, possiamo sempre aumentare come e quando vogliamo, capito? Come e quando vogliamo, K, niente. Ma ce n'è potenza, tutto al minimo, mi. Ed è tutto al minimo. Io guarda, sono arrivato a averne 8 di MC60, già. Una giubbino a tutti. Ho fatto uno a Antonio, ne ho fatto uno a Eugenio, uno a Natale, uno a Roberto. Quanti ne ho fatto? E poi mi sono rientrati quando ho ripreso le radio, che mi sono ripreso le mie radio, me le hanno offerte, trombe e porta, ma io mi ho ripreso tutto. Ma ne avevo 8. 8 ne avevo invece 60, perché avevo 8 radio, capito? 8 radio avevo, cazzo, non sono vivo, minchia, 8 K avevo, 2430, 2440, 3740, 680, 790, mamma mia come sto. Vabbè, comunque lui, veramente ottimo quell'affare, qualità prezzo, ha un funzionamento veramente interessante. Ma io l'avevo scoperto quando vi ho mandato il video, sia a te che a Gianni, quel video su YouTube, ma io non ci volevo credere, non è possibile che questo faccia questa differenza qua con questo pedale. E vi ho mandato il video, e così ho fatto, capito? Non ci va proprio il video al pedale. Poi già, aspetta che abbasso il volume qua del ricevitore. Poi, ripeto, avendo un equalizzatore anche, poi se non ti si addice appunto la radio, le stesse cose, ripeto, le puoi fare anche con 60, ti prendi un PTT come quello che ho io, un pulsantino, un vecchio microfono, e usi il 60 direttamente che lo appoggi, visto che a te ti piace stare curicato, puoi sfruttare un PTT ma usare le 60, capito? Cosa fai? Con l'equalizzatore ti regoli la voce come quando ti dicono boh, questa è perfetta, ecco che lo puoi fare, mentre attaccando solo il microfono non lo puoi fare, chi sa la modulazione, se a uno non esce bene con 60 è così che lo puoi fare col pedale, capito? Ehi, è quello lo so, ma non è che mi piace stare a letto e ci sono costretto a starci proprio quello. Claudio, comunque io ti ricordo che ti vendesti un microfono MC60 nuovo, quindi tu pensaci se ce n'è uno in più. Quello che mi hai dato tu, quello che mi hai dato tu l'ho dato a Eugenio, quello tuo ce l'ha Eugenio, il più nuovo che avevo, ma attenzione, che tutti quelli che ho sono fiammanti, perché anche quello che ho dato a Luca è nuovo, questi che sono qua sono tutti nuovi, sono a posto, perché riesco a prenderli sempre da gente che è come me, che li usa bene, capito? Però quello che mi hai dato tu l'avevo dato a Eugenio, perché era praticamente uno degli ultimi, siccome la radio che ha Eugenio è veramente, ma non veramente, di più, nuova, era la mia, non gliel'ho venduta io, ma gliel'ho fatta vendere io, a chi l'ho venduta io praticamente, c'è stato un giro, e quindi ho detto, guarda, ti do anche il microfono di quella radio che l'ho anche detto, chiedi a Eugenio, questo è il microfono, ma l'ha venduto Gianni, ma l'ha dato Gianni, ed è nuovo, capito? Scappagato. Ma io ho 140, c'ho 440. No, c'è 140 che avevo io. Ah, che bello, adesso da quando c'ha quell'apparecchio lì, l'unica volta che lo sento bello forte e bello corposo. Prima lo sentivo lontano come, ma adesso da quando c'è quell'apparecchiatura lì va molto bene. Tutti quelli che senti a Sassari e fuori Sassari, a Porto Torre ce ne sono 3 miei, perché anche Antonello e Claudio c'hanno radio mie, capito? Quindi Eugenio, Antonello e Claudio a Porto Torre, e poi tutti quelli di Sassari, tutti quelli che tu senti col K sono tutte radio che ho dato io, tutte. Quindi grazie a Dio non ho mai fatto brutta figura, mai nessuno è venuto a dirmi niente. È chiaro che aspettatevi sempre un qualcosa, perché come succede a me può succedere agli altri, sono radiovecchi, si possono da un giorno all'altro dire oh, boom, e si curano, purtroppo è così, a me mi è capitato già un paio di volte, però si ripara e si mette nuovamente in giostra, tutto qua, però tutte le radio che ho dato io, ma non solo a Sassari, a Porto Torres, a Alghero, a Cagliari, ne ho venduto due a Oristano, non mi hanno mai telefonato a dirmi mi hai fottuto, sempre in ottimo stato, sempre belle, funzionanti e tutte cose. Sì, io li ho venuti tutti a Sassari, quelli che abbiamo avuto tre, tutti a Sassari li ho venuti, l'ultima che ho venuto è a Marco Condor, quella era impeccabile, poi ce l'avevi messo a mano tutti, ricordi che avevi messo dei schiumali e ci avevi dato una giratina, l'amplificazione della radio, quella lì andava benissimo, proprio nuova nuova, e poi chissà che fine ha fatto, l'ha venduta e non so più che fine ha fatto. Il MC60 era nuovo, quello lì era nuovo di zecca, comprato nuovo, che l'avevo dato io, e niente, la radio era perfetta, quella me l'aveva venduta Tecnocomunicazione, ritirata alla fiera. Ma Coco, non l'avevo comprata io la radio del MC60, ho sbagliato? No, l'ha presa, come si chiama, Benito Abbart. Benito l'avevo fatto per io, però, sempre tramite me, perché Benito non conosceva Marco, sempre tramite me. C'è sempre il mio zampino, ma a me mi chiamano, anche l'altro giorno mi hanno chiamato, se avevo qualcosa, però no, di quello che mi stai cercando no, 4.40 non me ne zecca più, perché io 4.40 li ho fatto vendere, ma io non li compro mai più, basta, mi sono stufato, io ho 4.30 che non spettacolo, e Luca l'ha visto, non spettacolo, ma io lo metto in un negozio e lo vendo come nuovo, capito? Come nuovo, e qua c'è Luca per testimoniare, come nuovo, fantastico, esteticamente e tecnicamente, è proprio nuovo, 140 che ho sono da vetrina lo stesso, nuovi, tutte nella guardia nuova, adesso mi è entrato questo 757 che è bellissimo, ho solo dato una pulitina col panno, ma è nuovo, nuovo, nuovo, sto aspettando il cavo per provarlo, perché i cavi che ho io non vanno bene, vai Luca. Allora, aspetta che ritorniamo come prima, vediamo un po', sto uscendo, sì, vediamo un po', tutto a posto. Ok, questo è quello da studio, ok, va bene, sì, sto uscendo. Sì, alla grande stai uscendo, non bene no, alla grande. Capito già cosa ti stavo dicendo. E c'hai, sì, te lo metti lì dal fianco, ma non hai un buco da metterci quella scatolina lì, aiuto. E così cioè, puoi stare sdraiato, che poi no, in effetti io non ho capito una cosa già, ma se tu vuoi il 60, ma poi la maggior parte del tempo che paga il baracchino sei sdraiato, cosa ne vedi lo 60? Ci arrivo perché il mobile c'ha le ruote, lo porto avanti e il braccio ci arriva tranquillamente. Ah, ecco, ho capito. Io ti avevo consigliato anche mettiti piuttosto uno da studio perché ce l'hai lontano e non senti la differenza della lontananza, ecco perché te l'avevo detto quello da studio, il 60 quando ti allontani la voce anche lì si allontana, capito? Kappa. E vabbè, adesso vediamo, tu fatelo arrivare, provalo, fai tutte le prove, va tutto quanto, provalo bene, guarda se riceve, se fuori frequenza, queste cose. Ti interessa la radio di Luca o domani mattina io vado e me la prendo? Non è che a me mi serve il video, io ce l'ho già il video, a me Luca mi ha girato il video che gli ha mandato il proprietario, è bellissima quella radio, non c'è entrata di più, capito? Con tutte le prove in banda laterale, perché quello è un radioamatore, non è che vende mondezza. Quindi, ma devo andare a pigliare 1000 euro o te la ribigliato la radio? Fammi capire già, perché ti capisco, No, vai tu di caratto, non c'è problema. Io che la mattina amore va a prendermi, non è che non posso aspettare a vendere niente. Ripeto, la radio è qua, io te la faccio anche sentire, non è che ne ho di problemi, se te la faccio sentire ti faccio un video, ti faccio tutto quello che vuoi, ti faccio le foto come le vuoi tu, se poi ti serve me lo dici, io ne ho